Sono dovuto andare a ricontrollare perché non mi ricordavo. L'ultima puntata del podcast, quindi dove si sentiva la mia voce, era del 28 settembre, comunque fine settembre. È passato più di un mese in silenzio, o proprio non del tutto in silenzio. C'erano delle incursioni nel canale Telegram, ma erano scritte, erano link di altre persone o qualche mio articolo. C'è un motivo per questo silenzio. E il motivo è che oggi parte una campagna importantissima per l'Italia. Una campagna che porterò avanti io, insieme alla mia collega Laura Carrer, che ha un podcast interessantissimo che vi linkerò, che dovreste ascoltare. Questa campagna, in inglese, si chiama Reclaim Your Face. Partiamo dalla base. Reclaim Your Face, riprenditi la faccia, è una campagna intereuropea contro la sorveglianza biometrica di massa. Ecco, ho fatto una serie di paroloni senza senso. È intereuropea, questo perché? Perché io faccio parte del Centro Hermes e anche Laura fa parte del Centro Hermes, che è un'associazione italiana che si occupa di diritti digitali. Il Centro Hermes fa parte di un network di altre associazioni, di altri stati europei, e tutti quanti insieme siamo all'interno di quello che si chiama EDRI Network, ovvero European Digital Rights Network. EDRI ha sede a Bruxelles, noi siamo in Italia e abbiamo deciso di metterci insieme ad altre associazioni per avviare questa campagna. La campagna ha un obiettivo pazzesco, difficilissimo, ma che speriamo di riuscire ad ottenere, ovvero quello di introdurre un divieto per l'utilizzo di tecnologie di sorveglianza biometrica negli spazi pubblici. Cos'è la sorveglianza biometrica? La più conosciuta, perché già vi ho rotto parecchio le scatole in questo podcast, è sicuramente il riconoscimento facciale. Quello che noi vogliamo fare è partire dai risultati che abbiamo in Italia o dai non risultati che abbiamo, e quindi uno dei risultati è sicuramente per esempio il comune di Como, che ha dovuto sospendere il sistema di riconoscimento facciale perché grazie a una nostra inchiesta giornalistica il garante privacy gli ha detto: guarda, qui questa cosa non ha base legale per stare in piedi, quindi lì è stato spento il sistema di riconoscimento facciale. Dall'altra, perché a livello nazionale la polizia scientifica fa quel che vuole. Sostanzialmente ha acquistato un sistema di riconoscimento facciale che utilizza come vuole, ma non risponde alle domande. Quindi non sappiamo quante persone finiscono in quel database, o meglio, lo sappiamo ma non abbiamo i dettagli. Ci sono 9 milioni di fotografie di volti presenti in questo database. 2 milioni di queste sono di cittadini italiani, 7 milioni di cittadini stranieri, tra questi inclusi anche i migranti, ma non sappiamo, perché il Ministero dell'Interno non risponde, quanti di questi 7 milioni sono migranti e quanti invece cittadini magari di altri stati europei. E quindi, partendo da questa doppia situazione, a livello locale abbiamo che i comuni non possono installarli, perché c'è un provvedimento del garante. A livello nazionale, cioè il Ministero dell'Interno che se ne frega completamente, noi abbiamo deciso di lanciare questa campagna. In Italia abbiamo diversi obiettivi, uno sicuramente è quello di chiedere trasparenza da parte sia del Ministero dell'Interno, ma di tutti gli altri comuni che vogliono, vorrebbero, stanno cercando di installare questo tipo di tecnologie. Dall'altra parte c'è l'intenzione di bloccare due installazioni che sono attualmente in corso. Una a Torino, in cui il sistema che è stato lanciato dalla sindaca e dalla polizia municipale non è chiaro se sia un vero e proprio riconoscimento facciale, ma in realtà dovrebbe riuscire a riconoscere il genere della persona e anche individuare le informazioni relative a, per esempio, gli indumenti che indossa e agli spostamenti che fa. E dall'altra parte invece l'altra città è Udine, dove, perlomeno stando alle notizie riportate dai giornali, si sta installando un sistema di riconoscimento facciale vero e proprio. Quindi un altro obiettivo è bloccare queste due città. Pretendere trasparenza, pretendere che vengano mostrate le valutazioni di impatto sulla privacy delle persone, sperando che siano state svolte queste valutazioni di impatto preventive, e quindi bloccarle. Ma come dicevo prima, la biometria non è solo riconoscimento facciale. La biometria non è altro che una tecnologia che deumanizza i nostri corpi, li trasforma sostanzialmente in bit di dati digitali. Non siamo più degli esseri umani, ma diventiamo semplicemente dei codici. In quel caso, la biometria può essere riconoscimento vocale. Il Ministero dell'Interno ha anche un sistema di riconoscimento vocale che riesce ad individuare e riconoscere le nostre voci partendo da dei video che trovo sui social network. Quindi siamo finiti in un video registrato durante una manifestazione pubblica? Il video è finito su YouTube? Potenzialmente il Ministero dell'Interno potrebbe prendere quel video e cercare di individuare le voci dei presenti. Altri sistemi biometrici sono per esempio quello che ti fa la scansione dell'iride, l'impronta digitale, il test del DNA, ma ci sono anche, grazie a questi lungimiranti sistemi di riconoscimento, scusatemi, di questi sistemi lungimiranti di machine learning, intelligenza artificiale, algoritmi e via dicendo, ci sono anche quei sistemi che riescono a riconoscere l'andatura e quindi cercare di trarre delle conclusioni in base ai movimenti che facciamo. Noi vogliamo dire no a tutto questo, stiamo lanciando la campagna oggi insieme a Grecia, Repubblica Ceca e Serbia, dove ci sono altre associazioni che fanno parte della network di EDRI che stanno lanciando altrettante campagne, ognuno con i propri obiettivi, ma quello principale, come dicevo prima, è pretendere trasparenza e pretendere che si arrivi a porre un blocco a questo tipo di tecnologie. Perché ricordiamolo, lo spazio pubblico è lo spazio in cui noi viviamo. Se veniamo trasformati, deumanizzati, ci viene strappata la nostra autonomia, lo spazio pubblico non è più uno spazio in cui costruire delle comunità sane e forti, in cui organizzarsi, in cui festeggiare gioia insieme alle altre persone. E il rischio a cui stiamo andando incontro, proprio in questi mesi di lockdown in cui siamo costretti a ritirarci dallo spazio pubblico, da nasconderci, a metterci in lockdown, in isolamento isolato, a disconnetterci dai legami che abbiamo con le altre persone, beh ecco, il rischio è che quando torneremo a poter calpestare quel suolo pubblico, le tecnologie di sorveglianza biometrica potrebbero averlo trasformato per sempre e trovarci così di fronte all'impossibilità di vivere appieno i nostri spazi pubblici. La campagna è Reclaim Your Face, riprenditi la faccia, perché noi siamo stufi di essere trasformati in dati.